Carissimi ascoltatori, anche questa sera iniziamo con la proclamazione del credo o simbolo degli Apostoli. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Amen. Questa sera commentiamo brevemente l'espressione Nostro Signore. La Signoria è un titolo d'onore, di autorità, di potere. Il Signore con la S maiuscola è Yahweh, è Dio, in quanto è sovrano, proprietario, creatore di tutto l'universo, di tutta la creazione. Oggi noi usiamo dare il titolo di Signore o di Signora al primo venuto, al primo che incontriamo per strada. E anche nel Vangelo alcuni che si avvicinavano a Gesù lo chiamavano Signore in questo senso generico. Ricordiamo per esempio la Samaritana al Pozzo, come è scritto in Giovanni capitolo 4, o il paralitico di Betsaida. Maria Maddalena fuori dal sepolcro si rivolge a Gesù credendolo il custode del giardino, il giardiniere, lo chiama Signore. Ma per i discepoli di Gesù questo titolo dato al loro maestro esprime molto più della comune buona creanza che usiamo noi quando chiamiamo Signore una persona. Gesù è il Signore. E il Signore è un titolo assolutamente unico e vediamo di chiarirlo perché è importante. Diversamente il Signore Gesù rimane una immagine, una figura sbiadita, le parole rischiano di essere banalizzate per la nostra mancanza di comprensione. Dopo la risurrezione sul mare di Tiberiade, i discepoli rientrano dalla pesca senza avere pescato nulla, a mani vuote. Dalla riva uno sconosciuto chiede loro, e leggo dal Vangelo di Giovanni al capitolo 21, «Figlioli, non avete nulla da mangiare?» Gli risposero, «No». Allora disse loro, «Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e non potevano più tirarla su per la gran quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro, «È il Signore». E nessuno dei discepoli osava domandargli «Chi sei?», poiché sapevano bene che era il Signore. Dopo la Pentecoste, lo Spirito Santo proietta una piena luce sugli avvenimenti della Pasqua. Il primo discorso di Pietro alla folla il giorno di Pentecoste conclude così. Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. E Paolo, nella lettera ai Romani, al capitolo 14, scrive: Per questo, infatti, Cristo è morto e ritornato in vita, per essere il Signore dei vivi e dei morti. Questo titolo esprime il culmine del mistero di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Questo titolo, Signore. E allora ci chiediamo come mai tanta importanza a questo termine Signore, visto che noi lo usiamo appunto con il primo che passa per la strada. Ed ecco che dobbiamo ritornare un po' indietro, diremo le cose, penso, spero, con chiarezza. Due o tre secoli prima di Cristo fu tradotta in greco la Bibbia ebraica probabilmente ad Alessandria d'Egitto. Il nome di Dio Yahweh, il nome impronunciabile per gli ebrei, fu tradotto con il termine greco Kyrios, che vuol dire Signore, e noi questo termine lo conosciamo, soprattutto gli ambrosiani, perché nella messa ripetono ancora adesso Kyrie eleison, che vuol dire Signore abbi pietà, abbi misericordia. Da quell'epoca, conseguentemente, nella Bibbia in greco, la Bibbia degli ebrei in greco, Kyrios significa Yahweh, ossia è il nome di Dio, il nome di Yahweh, il Dio dell'Antico Testamento. Allora, Gesù è il Signore, significa Gesù è Yahweh, né più né meno Yahweh come il Padre, ossia Signore vuol dire Dio. Gesù, figlio di Dio, diventato uomo, è Dio come il Padre. Gesù di Nazaret, figlio di Maria, falegname di professione, è Yahweh, Signore, Dio. Siamo qui nel cuore del mistero di Gesù Cristo, al centro della fede cristiana essenziale. Paolo, nella lettera ai Romani, al capitolo decimo, scrive: se confesserai con la bocca che Gesù è il Signore e crederai con il tuo cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvo. Voi avete capito, ora, se confesserai con la bocca che Gesù è il Signore, significa se confesserai con la bocca che Gesù è Dio, Yahweh, come il Padre. Gesù Cristo è il Signore di tutti, leggiamo negli Atti degli Apostoli al capitolo decimo, e Paolo nella lettera ai Filippesi al capitolo secondo, in quel bellissimo inno a Cristo, ha scritto: nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, ossia che Gesù Cristo, figlio di Maria, il falegname che avete visto circolare per la Palestina, che avete crocifisso, è Dio come il Padre. La fede viene professata più nella vita quotidiana che con la recita del credo. Qui vorremmo passare un po' dall'esposizione teorica, pur bella, di queste verità della fede, per arrivare un po' all'applicazione pratica di cui abbiamo tanto bisogno. Ed ecco, allora, non basta proclamare bene il credo, bisogna poi tirarlo nella pratica della vita, perché potrebbe accadere, senza saperlo, che Gesù Cristo sia nostro Signore in mezzo a tanti altri signori. Diamo del Signore a tutto, c'è il Signor Papa, il Signor Presidente della Repubblica, il Signor Datore di Lavoro, il Signor Avvocato, insomma tutti qui sono signori. Qui si dice nostro Signore. Nel credo si dice credo in un solo Signore, nel credo che noi professiamo alla messa, quello più lungo. Un solo Signore. Ed ecco allora, Gesù non può essere uno dei nostri signori e nemmeno il primo tra gli altri. Non ne possono esistere altri signori nella nostra vita. È il solo Signore. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo. Il credo di Nicea proclama, appunto, credo in un solo Signore, Gesù Cristo. Vediamo di situarci nel tempo in cui è stato scritto il credo, al tempo di Cristo e dei primi cristiani. Nei primi secoli della Chiesa, l'imperatore romano rivendicava per sé il titolo di Dio, di Signore. Accanto a lui brulicava una fauna di signori piccoli e grandi, buoni e cattivi, tutto l'apparato dell'impero. Tutto questo esiste anche ai giorni nostri, è cambiato solo in superficie. Abbiamo anche oggi tanti che vogliono essere ritenuti e chiamati signori, persone che si credono Dio, che si chiamano star, stelle, per dire che sono personaggi da cielo, da firmamento. Abbiamo i divi dello stadio, se volete, del calcio, per essere più chiari, i divi dello spettacolo, della musica, del canto. Abbiamo i tiranni della burocrazia e anche della moda, i magnati della politica e della stampa e dell'industria, insomma, questi grandi signori. Che facciamo noi se non abbiamo una particolare sensibilità cristiana? Siamo tentati di dedicarci all'adorazione del denaro e di chi ne possiede, appunto i signori, del potere e di coloro che lo detengono. Siamo tentati di adorare quelli che hanno il prestigio, la bellezza, la fama. Come si fa a sapere se siamo veramente cristiani su questo punto del credo? Il cristiano può verificare l'autenticità della sua fede in Gesù Cristo come unico Signore, unico assoluto della sua vita, misurando l'allergia che sente verso ogni tipo di piccoli assoluti che pullulano nella società umana. Il cristiano dice: io ho un solo Signore, che è Gesù Cristo. Tutti gli altri non sono signori di niente e di nessuno. Tutti gli altri sono per me fratelli e sorelle. Mi comporterò con loro con il massimo rispetto, ma nessuno voglia fare da Dio nella mia vita, da padrone della mia vita, da Signore della mia vita. Non tanto perché io sono allergico ad avere dei padroni sopra la testa, ma perché Cristo non vuole, perché io credo che solo Gesù Cristo è il mio unico Signore, e se accettassi qualche altro Signore nella mia vita, io tradirei la fedeltà all'unico Signore Cristo. Il cristiano rende volentieri a Cesare quello che è di Cesare, ce l'ha insegnato Gesù nel Vangelo. Il cristiano rende a ciascuno l'onore che merita, quindi dire che l'unico Signore è Gesù Cristo non vogliamo dire quindi disprezziamo cordialmente tutto e tutti, assolutamente no, ma il cristiano è sovranamente libero. Ascolta e segue solo Cristo. Lo dice Gesù nel capitolo 10 del Vangelo di Giovanni, quando si presenta come il buon pastore. Dice: le mie pecore, i miei cristiani, ascoltano la mia voce e seguono me. La Chiesa, ossia noi cristiani, perché la Chiesa non è solo il Papa, il Cardinale, il Parroco o la Suora, la Chiesa sono tutti quelli che appartengono alla famiglia di Dio, tutti i battezzati e anche tutti quelli che in una forma misteriosa appartengono a Dio, anche se non appartengono ufficialmente alla comunità cristiana visibile. La Chiesa non deve rendere culto agli dèi di questo mondo e neppure esigere per se stessa un simile riconoscimento. Allora bisogna adorare il Papa, adorare il Vescovo. No, no, no, sono nostri fratelli. Hanno una funzione importante, ma sono nostri fratelli. Il Signore è solo Gesù. Il Signore della Chiesa, Gesù Cristo, ha rifiutato di essere re di questo mondo, lo leggiamo nel capitolo 6 di Giovanni. Gesù si accorse che erano venuti a prenderlo per farlo re, e si nascose e andò in cima a un monte a pregare, a incontrarsi con il Padre. Gesù nel Vangelo ha condannato lo spirito di dominio che tentava di attecchire fra i suoi, dicendo: i re di questo mondo dominano, si fanno pagare le tasse, fanno da padroni, tra voi non sia così assolutamente. Guardate me, io non sono disceso dal cielo per essere servito, ma per servire e dare la mia vita per la salvezza di tutti. Quindi Gesù ha condannato lo spirito di signoria, lo spirito da padrone che è così tanto innato e radicato in ognuno di noi. Gesù Cristo dà un potere agli apostoli, ai suoi cristiani, certamente. Dà loro un potere, quello di servire. Dà loro una divisa per il comando e per la liturgia, il grembiule. Gesù nell'ultima cena, quando ha ordinato i sacerdoti, quando ha istituito l'Eucaristia, si è tolto via i paramenti, si è rivestito da servo, si è messo il grembiule e è passato a lavare i piedi ai 12 apostoli che erano indegni, erano dei traditori, dopo qualche ora l'avrebbero abbandonato tutti, sarebbero fuggiti. Ecco, e dice: avete visto quello che ho fatto, avete capito quello che ho fatto. L'ho fatto per darvi l'esempio, perché facciate anche voi come ho fatto io, ossia vi costituisco servi e lavapiedi dei vostri fratelli e delle vostre sorelle. Da quel momento, al seguito di Cristo, ci sono solo fratelli e sorelle in servizio reciproco, quindi non ci devono essere padroni nella Chiesa. Solo Gesù è il Signore, perché solo Gesù è il Dio, perché la Chiesa non è del Papa, del Vescovo o di me, prete, la Chiesa è di Cristo, perché è la sposa di Cristo, e voi sapete che la sposa non la si cede a nessuno. Per il cristiano non esiste altra signoria che quella di Gesù. Egli è il solo Signore, l'unico Signore della vita del cristiano e della Chiesa. È il solo Signore della creazione, come ci dice San Paolo e come sappiamo nel Credo, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create dal Padre, quindi Lui è il Signore perché le ha fatte Lui le cose, quindi ne è il legittimo proprietario. È il Signore della storia degli uomini, e come ci insegna il libro dell'Apocalisse al capitolo 22, Gesù Cristo è l'inizio e la fine, è l'alfa e l'omega, il primo e l'ultimo, ossia il tutto. E San Paolo ce l'ha detto: omnia et in omnibus Christus. Cristo è tutte le cose ed è presente in tutti, affinché, è sempre San Paolo che scrive, alla fine Dio sia tutto in tutti. Ecco qui la signoria di Cristo. Il Padre l'ha costituito al di sopra di tutti per essere l'unico Signore dei vivi e dei morti dell'universo intero. Carissimi ascoltatori, il nostro credo continua: fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine. Prima di leggere i brani del Vangelo che ci raccontano, ci narrano il fatto, vorrei fare una piccola digressione. Su questa nascita di Gesù da Maria per opera di Spirito Santo, purtroppo molti nel popolo cristiano ci fanno delle battute di spirito, ci fanno delle barzellette, ci fanno anche delle bestemmie. Purtroppo qualcuno dice: io sono disposto a credere tutto, ma non venite a dirmi che Gesù Cristo è nato da una donna senza concorso d'uomo, è impossibile, le leggi della vita sono queste. Ecco, io vorrei aiutarvi a credere e a leggere con grande venerazione questi brani del Vangelo, adducendo un piccolo ragionamento. Se Dio ha creato dal nulla l'uomo e la donna, non ha il potere di far nascere anche un bambino da una donna senza concorso di un padre umano? Leggo allora alcuni testi della Scrittura che narrano il fatto. Dal Vangelo di Luca, capitolo 1, versetti 26-38. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. La Vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Ti saluto, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Com'è possibile? Non conosco uomo». Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te. Su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio, e questo è il sesto mese per lei che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto». E l'angelo partì da lei. Leggiamo dal Vangelo di Matteo, capitolo 1, versetti 18-23. Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo. Sua madre, Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. Mentre però stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». Tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: «Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emanuele, che significa Dio con noi». Il racconto di questi due Vangeli è molto chiaro e comprensibile per coloro che vogliono ascoltare Dio e non contestare Dio che parla e che esprime con chiarezza il suo operato e la potenza dell'Altissimo, la potenza creatrice e generatrice di Dio, che ha dato la vita all'uomo Gesù nell'utero della Vergine Maria. San Paolo parla della nascita di Gesù da una donna, e quindi fa un accenno a Maria, la madre di Gesù, una volta sola in tutti i suoi scritti. Voi sapete che le lettere di Paolo sono gli scritti più antichi del Nuovo Testamento, sono state scritte prima dei Vangeli e di altri testi del Nuovo Testamento. Paolo era già morto quando Marco incominciò a scrivere il primo Vangelo nella stesura definitiva. Ecco allora che nella lettera di Paolo ai Galati, capitolo 4, versetto 4, troviamo questo bellissimo accenno a Maria. «Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio nato da donna». I padri della Chiesa, ne citiamo due, che ribadiscono queste verità che noi stiamo esponendo con umiltà, speriamo anche con chiarezza e con semplicità. Sant'Ignazio di Antiochia, che è morto nell'anno 107 d.C., quindi è uno della primissima generazione di cristiani del tempo degli Apostoli. Scrive nella lettera ai Tralliani, se qualcuno vuole più precisamente sapere dove: siate dunque sordi quando qualcuno vi faccia discorsi che non vi parlano di Gesù Cristo, disceso dalla stirpe di Davide, figlio di Maria, che realmente nacque, mangiò e bevve, fu realmente perseguitato sotto Ponzio Pilato, fu realmente crocifisso e morì, che realmente risuscitò dai morti e lo risuscitò il Padre suo, che risusciterà similmente anche noi che crediamo in Lui, per virtù di Gesù Cristo, senza il quale noi non possediamo la vera vita. Ed ecco, cito un breve brano dal simbolo detto di Sant'Atanasio. La vera fede è credere e proclamare che nostro Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, è Dio e uomo, è Dio eternamente generato dalla sostanza del Padre, è uomo nato nel tempo dalla sostanza di sua madre, perfettamente Dio, perfettamente uomo, composto da un'anima razionale e da un corpo umano, uguale al Padre secondo la divinità, meno grande del Padre secondo l'umanità. Anche se è Dio e uomo, non ci sono tuttavia due Cristo, ma uno solo. Uno solo, non perché la divinità sia stata trasformata in carne, ma perché l'umanità è stata presa da Dio. Uno solo assolutamente, non per confusione dell'umano e del divino, ma per l'unità della persona. Infatti, come l'anima razionale e il corpo sono un solo uomo, così Dio e l'uomo sono un solo Cristo. Il testo non è facile, non ci soffermiamo neanche a commentarlo più di tanto. Diciamo solo in sintesi: la Chiesa ha insegnato da sempre che Gesù Cristo è una sola persona, la persona del Figlio di Dio, che è diventato anche veramente uomo, nascendo da una madre umana, da Maria. Gesù ha un solo Padre divino, il Padre eterno, e una sola madre umana, Maria. Non ha una madre divina e non ha un padre umano, tanto per essere ancora più espliciti. Ed ecco allora che sintetizziamo e chiudiamo anche questo secondo momento. Gesù, vero Dio e vero uomo, ha Dio solo per padre. Lo Spirito Santo non è un padre supplente, ma è la potenza creatrice del Padre, la potenza dell'Altissimo, di Dio Padre, come dice l'angelo nel Vangelo di Luca. La potenza dell'Altissimo, ossia lo Spirito Santo, dando la vita all'uomo Gesù nell'utero di Maria Vergine, porta la creazione al momento massimo della perfezione. Produce qui sulla terra l'uomo Cristo Gesù, che è il vertice della creazione. Abbiamo annunciato la realtà del Signore Gesù, eterno Figlio di Dio, nato 2000 anni fa come uomo da una donna che si chiama Maria. L'enunciazione di queste verità è importantissima, ma non è meno importante tirare ogni tanto qualche piccola conclusione pratica che tocca la nostra vita, la nostra fede. Cito un non cristiano, seguite, forse ha qualche cosa da insegnare anche a noi. Un saggio indù ha detto che l'Europa ha capito soltanto metà del messaggio di Cristo. L'Europa ha capito che Cristo e Dio sono un tutt'uno. deve però ancora scoprire l'altra metà, che cioè Cristo e l'uomo sono un tutt'uno, che l'uomo, ogni uomo, anche il più piccolo degli uomini, è di Cristo, è Cristo. Effettivamente anche noi cristiani, e qui tocchiamo forse la sensibilità di qualcuno, siamo stati educati, direi anche spinti, ad andare in chiesa, a pregare, ad adorare il Signore Gesù presente nel tabernacolo, nell'Eucaristia. Verissimo, nulla da eccepire, è presente in corpo, sangue, anima e divinità. Forse siamo stati meno istruiti e meno spinti a venerare, ad adorare, a servire Cristo presente in ogni uomo e donna, cristiano o no. Succede, per dirla in altre parole, che in chiesa siamo devoti, facciamo la comunione, facciamo delle genuflessioni, fuori rischiamo di disprezzare il prossimo, di prenderlo a pedate. Il Cristo presente nel prossimo è identico a quello presente nell'Eucaristia. E non è più importante l'Eucaristia rispetto al fratello, anzi, ricorderete che nel periodo di Natale abbiamo letto un brano di San Giovanni Crisostomo, vescovo di Costantinopoli, che diceva: cari fratelli, noi dobbiamo venerare il corpo di Cristo, ma non basta che andiamo in chiesa ad addobbare gli altari, a comperare vasi sacri, a onorare il Cristo presente nell'Eucaristia. Il Cristo ha più bisogno nel povero che soffre la fame, la sete, il freddo. Quindi prima onoriamo Cristo e spendiamo i soldi per il povero, poi con quei soldi che ci avanzano andiamo ad addobbare gli altari. Il Vangelo ci insegna poi la stessa cosa. Ricordate il racconto del giudizio universale nel capitolo 25 di Matteo. Il re dirà: venite in paradiso voi perché avevo fame, mi avete dato da mangiare, avevo sete, mi avete dato da bere, ero senza vestito, mi avete vestito, ero senza casa, mi avete ospitato, ero malato, mi avete curato, ero in carcere, siete venuti a trovarmi. E diranno: quando mai, Signore, ti abbiamo visto? Ed egli risponderà loro: ogni volta che avete fatto questo al più piccolo dei miei fratelli, al più piccolo degli uomini e delle donne, l'avete fatto a me. Cristo si identifica con ogni uomo e ogni donna. Questo saggio indù ha voluto mettere il dito veramente sulla piaga. Siamo carenti in chiesa, diciamolo pure. Forse siamo ancora più carenti fuori, carenti di fede. Invece di vedere Cristo in tutti quelli che incontriamo, noi vediamo quello lì, quella lì, e forse diamo loro anche dei titoli o spariamo dei giudizi tremendi. Ecco, allora, questo Dio diventato uomo può rischiare di dar fastidio. L'incarnazione ha scandalizzato i giudei del tempo di Gesù, perché per loro era impensabile che Dio l'Altissimo, il Santo, nascesse diventando bambino inerme, fatto di carne e di sangue, e che diventando uomo avesse anche davanti a sé in prospettiva la morte. L'incarnazione è stoltezza per tutti i pensatori di tutti i secoli, i pensatori e i filosofi, perché l'incarnazione pone l'Eterno, che stava benissimo su nel suo paradiso, nel tempo. E noi sappiamo che cosa ha incontrato Dio diventato uomo nel tempo. Al momento della nascita, Maria e Giuseppe si sono sentiti dire: non c'è posto per voi, andate a partorire vostro figlio fuori, arrangiatevi. Erode manda subito i soldati per ammazzare i bambini di Betlemme, perché voleva far morire subito Dio diventato bambino. E anche da grande Gesù ha avuto tanti rifiuti e poi è stato ucciso, come diremo nel seguito del credo. Per gli ebrei, quindi, è una stoltezza dire: Dio è diventato uomo, è orrendo. per i pensatori, per la filosofia greca, per i pensatori di ogni tempo, di ogni nazione, l'Eterno non viene qui a impastoiarsi nel tempo in mezzo agli uomini per essere poi eliminato. Lo spirito purissimo di Dio non viene a impastarsi nella materia. L'unico Dio non viene qui per poi diventare presente in tutti gli uomini e le donne, moltiplicarsi. L'uno è la perfezione, il molteplice è l'imperfezione. L'universale, ossia il Dio che è tutto, diventa un uomo di Palestina, un falegname, non un re, un principe, diciamo un povero uomo, un uomo del popolo. Allora l'incarnazione è esattamente il cammino inverso dell'idealismo, delle filosofie, dell'idealismo greco in particolare, che cerca la salvezza nella disincarnazione. Dio solo sa la fatica che Paolo Apostolo e i suoi aiutanti hanno fatto per annunciare ai greci e agli abitanti dell'impero romano, che erano infarciti di filosofia greca, che la salvezza non consisteva nel liberare lo spirito dalla materia, per cui quando uno moriva finalmente si liberava dal peso del corpo, ma la salvezza consisteva proprio nella risurrezione del corpo. I greci insegnavano che l'uomo era un essere spirituale, un essere da paradiso, che è stato rinchiuso nella materia qui in terra per castigo, come uno viene messo in carcere, in prigione. Per cui questo spirito imprigionato nella materia, come ogni carcerato, sospira solo il giorno in cui può uscire dal carcere per liberarsi nuovamente e ritornare da dove era decaduto. Il cristianesimo insegna tutto il contrario. Dio si è fatto materia, si è fatto creatura, si è fatto uomo, e la risurrezione non è Cristo che ritorna come spirito, come Dio in paradiso, e abbandona qui la carne, il corpo, che oltretutto, secondo noi, gli ha dato anche un mucchio di grattacapi. No, è risuscitato, la risurrezione dei corpi, la risurrezione dei morti, ci insisteremo molto anche noi. Tutte le grandi eresie, ossia tutti quei movimenti che hanno negato le verità cristiane, indicano la nostra resistenza a questo vertiginoso ideale, a questo avvicinamento sconvolgente, inquietante. L'unione reale dell'uomo con Dio. Anche nella nostra religiosità, se non stiamo attenti, continuiamo a dire Dio, Gesù Cristo è su in paradiso e stiano lì, che qui in terra è meglio che non ci stiano tra i piedi, così possiamo fare tutto quello che vogliamo noi. No, lo diremo, Cristo è qui, è presente in ogni uomo con cui noi ci incontriamo, è presente nel mondo, è vivente qui in mezzo a noi e dentro di noi. Ancora oggi ci sono eresie sommerse ma pericolose, come mine vaganti inesplose. Facciamo un paio di esempi. Il cristiano male istruito crede che Gesù Cristo si è manifestato in un corpo senza anima e considera la parola carne, il verbo di Dio si fece carne, esclusivamente in senso materiale, come la bistecca, mentre il Vangelo vuole dire il verbo di Dio si è fatto uomo. C'è poi il cristiano che ritiene di essere troppo dotto, per cui gli è andato in ebollizione il cervello, che rappresenta Cristo come qualcuno che, viaggiando qui sulla terra con noi che siamo dei ciclisti, lui c'ha il ciclomotore, perché dentro c'ha il motore della divinità. Fa finta di pedalare come se fosse anche lui su una bicicletta come la nostra, per incoraggiare i ciclisti, noi uomini che sudiamo e non poco, per superare le asperità della vita, le salite della vita. Finge di affaticarsi sui pedali, ogni tanto sospira per dare l'impressione che è stanco, si asciuga il sudore perché gli altri sudano, ma con tutto ciò lui va sul motorino, sul ciclomotore, e lui non fa fatica. In altre parole, Cristo ha risolto i suoi problemi di uomo con il motore della sua divinità e non pigiando faticosamente sui pedali della sua umanità, come noi. La frase che riassume questi atteggiamenti la conosciamo tutti. Guarda che Gesù Cristo ha perdonato, Gesù Cristo è morto sulla croce, Gesù Cristo... Ah, ma lui era Dio. Certo che era Dio, ma ha perdonato ed è vissuto ed è morto come uomo, uomo come te, con la forza dello Spirito Santo che anch'io e tu abbiamo ricevuto. E quindi abbiamo la stessa potenza di Dio, la potenza dello Spirito, per fare le stesse cose che ha fatto Cristo. Anzi, nel Vangelo ci ha detto: se crederete in me, non solo farete le cose che ho fatto io, ma ne farete di più grandi. Qualcuno ci disse che Gesù non pregava per necessità, ma per darci il buon esempio. Faceva finta. Ripeto, Cristo non è stato un uomo finto, ha faticato come ogni uomo, come me, come te. Anche alcuni grandi teologi e predicatori della storia del cristianesimo, tra le tantissime cose belle e giuste che hanno detto, ogni tanto hanno preso qualche abbaglio. Bossuet è un arcivescovo francese dei secoli passati, ci lascia di stucco quando commenta la frase del Vangelo di Luca al capitolo secondo: Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio, agli uomini, e dice, subito commentando in un suo libro che in francese è intitolato Elevation sur le mystère, elevazione, meditazioni, contemplazioni sui misteri della vita di Cristo, scrive: Gesù possedeva tutta la perfezione fin dal principio, ma la lascia trasparire progressivamente per rassomigliare a un vero bambino. Ha fatto finta di crescere, ha fatto finta di essere un bambino. E perché si dicono queste cose? Sbagliate, ovviamente. Perché noi ancora oggi diciamo sempre, faceva tutto Dio, il corpo era un semplice contenitore nel quale c'era dentro Dio, e quindi Gesù Cristo tutto quel che ha fatto l'ho fatto perché era Dio, e come uomo non ha avuto né un cervello, né dei sentimenti, né una volontà, niente, era svuotato completamente della sua parte spirituale, alla quale era stata sostituita la divinità, ma neanche per sogno. Qualcuno poi crede che Gesù è stato uomo, ma adesso non lo è più e che in eterno è soltanto Dio. È disceso come Dio in terra, è diventato uomo, è rimasto uomo 30 anni, 33, qualcuno di più. Poi quando è morto ha piantato qui il corpo e se n'è tornato su da Dio in paradiso. No, alla destra del Padre Eterno ci sta seduto un uomo, figlio di Maria, Gesù di Nazaret, vero Dio come il Padre e vero uomo come noi. Altri allontanano Cristo dal mondo, lo confinano in cielo. Mettiamo Cristo in paradiso, mandiamogli su qualche preghierina, incensi, vuole anche qualche soldo da dare al prete, diamogli anche i soldi, ma stia lassù, lì sta bene. Lo incensano, lo esiliano totalmente e rendono la carità fraterna che dobbiamo vivere qui in terra al massimo un comando, un'occasione di merito e non quale essa è per davvero. Che cos'è la carità, l'amore nei confronti del prossimo? Do un po' di amore a un povero disgraziato? No, non è un povero disgraziato. L'amore per il prossimo è sempre amore per il Cristo che si identifica con ogni prossimo. Allora la carità, l'amore fatto di opere, di buone parole, di atteggiamenti validi e positivi, non è tanto aiutare un poveretto o una poveretta, è sempre un atto di amore a Cristo che si identifica con l'uomo o con la donna con cui io mi incontro, mi sono incontrato oggi e mi incontro in ogni momento della mia vita. Io amo Cristo amando il prossimo, facendo l'elemosina al povero la faccio a Cristo. Maltrattando il povero, maltratto Cristo. Qualcuno dirà, ma è uno, sa, di Vucumpra, uno di quelli che ti puliscono il vetro ai semafori. E chi sono quelli? Sono dei marocchini. Ah sì, quanto sei ignorante. quelli sono Cristo, come il Papa, come il Vescovo, come me, come te. Quanti guai commettiamo nella vita perché non abbiamo la chiara identità delle persone. Faccio una piccola digressione personale, tanto per illustrare il significato. Una volta tornavo a casa mia, una domenica, forse anche un po' stanco, incontro due persone che mi dicono «Lei sa chi siamo noi?» Non le avevo mai viste, non le conoscevo. E rispondo per quello che mi sembrava giusto. «Certo che lo so chi siete voi, voi siete Gesù Cristo». Queste due persone dicono «Oh, guarda, non ce l'ha mai detto nessuno, che strana cosa!» E si misero a ridacchiare. Mi meraviglio che ridacchino. Perché? Perché effettivamente quelle due persone per me sono Gesù Cristo, come chiunque io incontro nella vita. Gesù Cristo svelerà tutte queste cose, ma ce le ha già anticipate qui, il giorno del giudizio. Tutto quello che avete fatto di bene o di male al prossimo l'avete fatto a me perché ero io quel tale o quella tale. Se non capiamo queste cose, il cristianesimo è inutile, è svuotato del suo significato e la morale cristiana non ha più senso. Quando io mi rapporto col prossimo, mi rapporto con Cristo che fa un tutt'uno con il prossimo. Quindi l'amore per il prossimo è un atto di amore a Cristo che si identifica con l'uomo. Leggo il brano di Matteo, capitolo 25, versetto 40. «Ogni volta che avete fatto tutte queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me». Ed ecco allora, occorre essere Dio per riuscire ad amare gli uomini. Se noi non abbiamo dentro la realtà di figli di Dio, una personalità di figli di Dio, Cristo figlio di Dio che fa un tutt'uno con noi, non siamo capaci di amare gli altri e di amarli a dovere, al giusto livello, perché gli altri non sono dei poveretti o delle poverette, gli altri sono Cristo e Cristo va amato come si ama Cristo, ossia come Signore, un amore altissimo, un amore infinito. Occorre che l'uomo sia veramente Dio, figlio di Dio, per avere un motivo sufficiente per amare l'altro, il prossimo, perché ci sia una ragione proporzionata ai sacrifici, alle volte inauditi, che un simile amore esige. Amare colui che ti ammazza un familiare, amare uno che ti violenta un figlio, amare uno che ti ha mandato sul lastrico, amare uno che ti ha rovinato la reputazione di fronte agli amici o al paese intero, non è una cosa da poco, è un sacrificio inaudito. Ebbene, il cristiano può e deve fare questo perché Cristo è riuscito a farlo con la potenza dello Spirito. Ecco allora, bisogna davvero che noi siamo Cristo e che negli altri vediamo il Cristo, figlio di Dio incarnato, diventato uomo, in ogni donna, per avere la forza di fare questi sacrifici inauditi, di amare sempre, di perdonare sempre e anche di non lasciarci scoraggiare dalle delusioni che il nostro prossimo spesso ci procura. L'unico mezzo per amare gli uomini è credere che Dio è uomo e si identifica con ogni uomo e ogni donna che incontriamo nella vita. Fratelli e sorelle, riprendiamo questa riflessione sulla verità e l'importanza dell'incarnazione del Figlio di Dio. Un Figlio di Dio che non è diventato uomo, l'uomo Gesù Cristo, ed è rimasto lì, ma attraverso la sua morte e risurrezione si è fatto presente in tutti gli uomini e in tutte le donne della storia. Ricordo quello che scriveva Borges, premio Nobel per la letteratura argentino, lui si definiva agnostico, diceva: «Io credo di capire perché i Vangeli non ci danno un ritratto del volto di Cristo, della realtà fisica di Cristo, Dio non ha voluto lasciarci l'identità del suo volto perché voleva che noi lo riconoscessimo nel volto di tutti quelli che incontriamo nella vita. Ecco allora, l'incarnazione non si conclude con l'ascensione di Cristo. Gesù è rimasto uomo, un uomo assiso alla destra del Padre Onnipotente in cielo, un uomo presente in ogni uomo e donna qui sulla terra. Nel Vangelo noi abbiamo incontrato determinati personaggi chiamati farisei che non andavano per nulla d'accordo con Gesù Cristo. Ma chi sono in realtà i farisei del Vangelo e i farisei di ogni epoca della storia? E di farisei purtroppo ce ne sono anche all'interno della Chiesa e forse ognuno di noi poco tanto è fariseo. Il fariseo è colui che tenta di fare delle sue buone relazioni con Dio, presunte buone relazioni con Dio, una scusa alle cattive relazioni con il prossimo. Ricordate il fariseo che sale al tempio a pregare e dice: «Ti ringrazio Dio che io non sono come gli altri uomini, quindi mi tengo ben lontano da loro. Gli altri sono ladri, adulteri, ingiusti. E io invece osservo tutte le leggi, pago tutte le tasse, digiuno 2 volte alla settimana, io non sono neanche come quello lì in fondo che collabora con i nemici, con la potenza occupante dell'impero romano». Gesù dice: quello lì in fondo che ha pregato Dio da peccatore convinto è stato riconciliato, a differenza del fariseo che era lì davanti a farsi bello e a condannare gli altri uomini. Ecco allora, il fariseo è colui che escogita il modo per non pagare il sussidio alimentare ai genitori votando i suoi beni a Dio, perché per lui l'importante è Dio. E anche qui dovremmo forse dare un colpo secco a sto discorso. Troppe persone ancora oggi nella Chiesa continuano a dire Dio, Dio, Dio. Già la prima lettera di Giovanni ci diceva: state attenti, perché è facile illudersi di amare Dio, anche perché non lo si vede, non lo si tocca. Tu ami Dio tanto quanto ami il fratello, perché Dio e l'uomo sono come 2 vasi comunicanti. Troppe persone sono tanto di preghiera, di messa, di comunione, di devozioni, di pellegrinaggi, però poi non amano il marito, la moglie, i figli, la suocera, la nuora, il vicino e chi mi ha fatto un torto. Guardate che il comandamento ultimo definitivo di Cristo è: amatevi come vi ho amato io, amatevi scambievolmente. Ossia, noi dobbiamo amare Dio, non tanto il Dio, diciamo, astruso, fatto di immaginazione, ma il Dio che vive concretamente dentro nell'uomo. Cristo, figlio di Dio, è diventato uomo e si identifica con ogni uomo. Ma se ricordate, anche ieri sera, citando il capitolo 14 del Vangelo di Giovanni, abbiamo ascoltato queste parole di Gesù: chi mi ama e mette in pratica il mio Vangelo, il Padre mio lo amerà, e io e il Padre verremo ad abitare stabilmente dentro di lui, e anche lo Spirito Santo. Allora, se Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo abitano stabilmente dentro nel fratello, nel prossimo e dentro di me, io non posso dire amo Dio ma non amo il prossimo nel quale c'è dentro Dio. Le due cose si escludono, si contraddicono a vicenda. Allora, ricordiamoci, i conti in regola con Dio danno al fariseo la possibilità di sentirsi la coscienza tranquilla nei confronti degli altri. Cristo ha rovesciato queste posizioni, questi sragionamenti. Egli ci ha detto: tu hai gli stessi doveri verso Dio e verso il prossimo. Tu non sei più vicino a Dio di quanto tu non sia vicino al prossimo. L'unica prova decisiva che tu ami Dio è che tu ami il fratello, diversamente sei un illuso. E credo che ci siano ancora troppi illusi anche tra noi praticanti. Leggo dalla prima lettera di Giovanni al capitolo 4. Se uno dicesse io amo Dio e odiasse suo fratello, è un mentitore. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, che è visibile, non può amare Dio che non vede, che non è visibile. Questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da Dio. Chi ama Dio, ami anche il fratello. E non ci sono scuse e non c'è possibilità di dissociare, di sganciare questa realtà, perché da quando Dio è diventato uomo, Dio e uomo sono un tutt'uno. Ecco allora che l'eresia più pericolosa sia lo sbandamento nella fede e nella pratica cristiana. Lo sbandamento più pericoloso consiste nel disincarnare Cristo, nel liberare Dio dal corpo di uomo che aveva qui in terra, nel rimettere su con devozione Cristo in paradiso perché stia lì bello pulito e non stia qui a impantanarsi in mezzo a noi. Se Dio se ne stesse in cielo, io potrei odiare tranquillamente il mio prossimo, o peggio ancora potrei ignorarlo, quindi disprezzarlo, far finta che non esista neanche, starmene a casa mia tranquillo con la mia povera religione della domenica. Io sono andato a messa domenica, ho osservato il precetto, basta adesso, durante la settimana io mi disinteresso di tutto e di tutti, crepino. E no, questa non è la religione cristiana. Se noi disincarniamo il Cristo e lo rimettiamo su in paradiso, solo Dio, senza essere un vero uomo, potremmo onorare Dio e durante la settimana sfruttare il fratello anziché servire il fratello. E allora diciamo subito, tutti gli sfruttamenti del prossimo, sfruttamenti sessuali, sfruttamenti sul lavoro, sfruttamenti perché siamo pesanti addosso al prossimo, perché mettiamo a repentaglio la tenuta della sua pazienza, della sua sopportazione, perché noi non lo rispettiamo, perché noi mettiamo dei grossi pesi addosso a lui, è servirsi del prossimo, è sfruttare il prossimo, è non amare il prossimo, che corrisponde a non amare il Cristo che fa un tutt'uno con quel prossimo, aggravare Cristo, dare dei fastidi a Cristo, rimettere nuovamente Cristo in agonia. La religione dell'incarnazione è scomoda e mette continuamente in discussione la nostra quiete. Dio è sempre presente. E non riusciamo a cancellare questa presenza né dentro di noi né fuori di noi. Ripeto, leggo Matteo capitolo 25. Alla fine del tempo Cristo ci dirà quello che dobbiamo già sapere oggi, perché sarà la paginetta su cui saremo esaminati. Io Cristo ho avuto fame, ho avuto sete, sono stato forestiero, ero nudo, ero malato, ero carcerato. Tu cosa mi hai fatto? E allora diciamo pure, guardando anche la politica, senza voler far politica partitica, tutte le strutture della società sono anticristiane, anche quelle italiane, quasi tutte. Il capitalismo è anticristiano, il proletariato è anticristiano, i privilegi di classe, di denaro, di razza, di colore, di educazione, di cultura, tutti sti privilegi sono anticristiani. Ovunque privilegi e barriere e quindi oppressione. Io ho studiato, ho la laurea per riuscire a far fessi tutti gli altri che non sono pratici, e siccome io ho studiato io voglio intascare 10 milioni al mese mentre il poveraccio si accontenterà di 1,5 milioni. Sembra tutto logico ed è tutto anticristiano, perché oltretutto Cristo non è tra i privilegiati. Non lo è stato in Palestina 2000 anni fa e non lo è neanche oggi. E allora chiediamoci anche se ci schieriamo dalla parte dove sta Cristo o se ci mettiamo in opposizione. Cristo non è tra i privilegiati. Cristo è in terra e si tratta di una presenza terribile. Gli avversari dell'incarnazione vogliono una religione comoda. Per questo esiliano Cristo, separano Dio dall'uomo, ognuno sistema le sue faccende come vuole e tutto è più facile quando Dio non interviene a complicare le cose. Dio lasciamolo in paradiso, se proprio vuol stare in terra stia dentro in chiesa, noi gli faremo una bella chiesa, noi daremo anche l'offerta, firmeremo anche l'8 per mille, ma stia lì, non venga in fabbrica, non venga alla borsa di Milano, non venga... nei nostri ambienti di vita. E concludiamo ricordando un fatto del libro della Genesi. Alla fine del mondo, per ognuno di noi risuonerà la stessa parola che risuonò in principio quando Dio disse a Caino, che aveva ucciso il fratello: Caino, dov'è tuo fratello Abele?